L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati a una nuova puntata dell'altro pianeta, pianeta che oggi andrà alla scoperta delle linee guida su progettazione, gestione e recupero delle aree estrattive, cioè oggi parliamo di cave e lo facciamo con Giuseppe Schlitzer, che è consigliere delegato AITE, che è l'associazione dei cimentieri di Confindustria. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Ed Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, buon pomeriggio, bentornato anche a lei. Buon pomeriggio. Senta, come nascono, Zanchini, queste linee guida? Come è nata questa collaborazione con AITECH? Beh, è nata dalla comune consapevolezza che è un tema, quello delle cave, delle attività estrattive, molto delicato per il nostro paese. Noi abbiamo in questo momento qualcosa come 6.000 cave attive in Italia, ovviamente oltre quelle del cemento, cioè in generale l'insieme delle cave aperte nel nostro paese, e qualcosa come 13.000 abbandonate. In un paese con il paesaggio straordinario che ha l'Italia, c'è bisogno di avere grande attenzione al territorio, e da qui è nata questa consapevolezza e poi portata alle linee guida. Le linee guida sono su progettazione, gestione e recupero, quindi c'è sia il passato, quelle 13.000 che diceva prima, sia quelle che sono attive adesso, diciamo, e quelle che potrebbero essere in futuro, no? Si comprende un po' tutto. Sì, ovviamente l'impegno che si può prendere per quelle che oggi sono attive o che dovranno nascere, molte di quelle abbandonate in realtà non si sa più neanche chi sia il proprietario, perché appunto molte sono abbandonate addirittura da molti e molti anni. L'impegno è a fare in modo che da quando si comincia a immaginare di aprire una cava ci sia un'attenzione alla scelta dell'area, al modo in cui verrà portato avanti il progetto di escavazione e durante questa escavazione all'attenzione nei confronti del territorio, che significa i cittadini che abitano vicino, ma anche la biodiversità, in modo che in tutte queste fasi si riesca a ridurre al massimo l'impatto ambientale e che poi alla fine si riesca a avere un'area che sia paradossalmente addirittura migliore di come era prima, perché c'è la possibilità di fare degli interventi di rimboschimento, di riqualificazione paesaggistica, che possono insomma riuscire a rendere integrale il più possibile un'attività delicata come l'escavazione con un paesaggio come quello italiano. Giuseppe Schlitzer, a questo punto, tutto questo è realmente fattibile senza difficoltà da parte di chi opera nella cava? No, diciamo, si tratta di operazioni naturalmente molto complesse, quindi è chiaro che l'attività industriale è un'attività impattante sul territorio e quindi, come diceva Zanchini, queste operazioni vanno progettate bene fin dall'inizio e quindi anche gli aspetti di sostenibilità vanno integrati fin dall'inizio nel piano, nella progettazione dell'attività estrattiva. Quindi questo è fondamentale anche per il successo della che si vuole realizzare. Quindi in queste linee guida vengono evidenziati dei casi di eccellenza che possono essere presi a riferimento, e ci sono tutte le indicazioni, i principi per portare a compimento delle operazioni estrattive che siano fatte secondo i criteri della sostenibilità. Che cosa bisogna tenere presente per essere sostenibili nel fare un'attività estrattiva? Ma diciamo, naturalmente si parte fin dall'inizio per quanto riguarda la selezione del sito, si tratta di fare un piano appunto che preveda fin dall'inizio delle modalità di recupero, si tratta di fare un'attività di estrazione che sia fatta secondo certi criteri, faccio per dire dall'alto verso il basso anziché dal basso verso l'alto, insomma, quindi ci sono una serie di criteri che vanno presi in considerazione in tutte le fasi del progetto, quindi dalla fase iniziale fino alla fase finale, e tutto è descritto in questa guida, che raccoglie anche l'esperienza molto lunga del settore cementiero, perché insomma vorrei ricordare che l'industria del cemento ha 150 anni di storia, quindi noi questa guida l'abbiamo fatta con Legambiente, forti della nostra lunga esperienza in questo settore, dove pensiamo appunto di essere un po' un'eccellenza. A proposito, ci sono appunto, come lei ricordava, anche degli esempi di eccellenza che possono essere seguiti. Ce ne faccia qualcuno, giusto per capire di che cosa si tratta? Ma guardi, io non nei particolari non vuole privilegiarne nessuno, sì, lo so, non però voglio, non voglio scendere, però, però senza dire nomi e cognomi, che cosa hanno fatto? Che vengono descritti nelle linee guida, dove queste cave vengono totalmente restituite alla comunità, forse anche meglio di come erano nello stato originario, quindi c'è un ripristino totale della flora e della fauna, quindi vengono realizzati anche praticamente dei parchi, e ci sono dei casi molto particolari, come un caso per esempio in Puglia, dove una cava viene non solo restituita ma anche adibita a centro, diciamo, didattico, di formazione, perché nel corso dell'attività estrattiva sono stati scoperti dei fossili, e quindi questa cava recuperata si presta molto bene a fare proprio dei percorsi anche didattici sotto questo profilo. E questa è uno, insomma, delle possibilità, insomma, che uno può. Questa è una delle possibilità, poi insomma qui però ce ne sono diversi, bisogna valutare caso per caso e possibilmente d'accordo con la comunità locale e con gli stakeholder come poter restituire, diciamo, questo sito alla comunità. Quindi è qualcosa che idealmente andrebbe valutato con gli stakeholder locali. Certo, certo. Beh, questo è parte comunque del progetto intero, insomma, delle possibilità. Zanchini, vedevo un elenco nelle linee guida di quello che si può ottenere facendo bene attenzione, cioè riduzione degli impatti su atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo e il sottosuolo. Insomma, ci sono delle effettive possibilità che cambierebbero il volto a tante cave. Soprattutto se... E ai cittadini che ci vivono, perché poi ci sono persone che abitano ovviamente nelle aree circostanti. Sì, soprattutto se questi aspetti si studiano prima, nel senso che i problemi sono sostanzialmente di due tipi: il rapporto con le comunità intorno, che ovviamente non sono d'accordo sul fatto che si faccia un'attività vicino a casa loro, perché appunto vuol dire traffico di camion, vuol dire movimenti terra, vuol dire polveri, vuol dire probabilmente il cambiamento di un paesaggio che loro vedono, e poi gli impatti che un'attività estrattiva può avere nei confronti invece del sottosuolo, della biodiversità, appunto degli aspetti idrici, perché può andare a cambiare anche un ecosistema. Allora, su questi due temi problema, le linee guida in qualche modo si interrogano per provare a dare una prospettiva di studio e poi di intervento che permetta appunto di ridurre questi impatti. Faccio degli esempi: il tema del trasporto, per esempio, può essere appunto studiato e ridotto attraverso un'attenzione alla logistica, ai percorsi di ingresso alla cava, al modo in cui per esempio vengono lavati i camion per evitare che poi portino polvere se devono passare vicino a delle case, e poi invece all'attività estrattiva, che ovviamente deve privilegiare le aree in cui tutto è compatibile, perché appunto se ci sono delle falde a rischio, ovviamente va scongiurata l'attività estrattiva, e però anche nel modo in cui il tutto viene portato avanti, perché c'è un aspetto paesaggistico che deve essere considerato in tutte le fasi. Tra gli esempi che noi facciamo positivi ci sono delle aree per attività estrattive in corso o realizzate in questi anni, oramai chiuse, nelle quali durante l'attività di cava si è avuta attenzione sempre a fare in modo che per esempio quell'attività non si vedesse, come facendo per esempio dei gradoni delle cave molto meno alti e profondi di quelli che si vedono normalmente, quei grandi buchi che si vedono nelle montagne, e poi progressivamente andandoli a coprire con della terra e della vegetazione, per cui ci sono delle attività estrattive che sono praticamente invisibili da un punto di vista paesaggistico. Sono diverse attenzioni che si possono avere e che possono permettere di anche dare forza poi a un progetto, perché oggi è molto difficile riuscire ad aprire una nuova cava, perché comunque ci sono attenzioni da parte delle comunità per l'identità di un territorio, e quindi diventa anche un fattore di consenso per un'azienda che vuole realizzare un intervento di questo tipo, che comunque è invasivo e impattante nei confronti del paesaggio. Senta, Zanchini, proprio a questo proposito, ma poi mi piacerebbe sentire anche il parere di Schlitzer, cioè il rapporto rapporti con le comunità locali. È molto difficile in Italia qualunque attività in questo momento, per una grande sfiducia anche giustificata nei confronti di chi vuole in qualche modo intervenire su un territorio. Non ci si fida più di quello che viene prospettato. Dialogo, questa è l'unica via probabilmente per riuscire a fare qualcosa che poi magari si trasforma anche in un beneficio. Per trovare consenso nei confronti di qualsiasi attività nel territorio bisogna avere un atteggiamento appunto di dialogo e di confronto, primo obiettivo. Secondo, studiare bene il territorio, l'impatto dei progetti, gli aspetti ambientali. Diciamo che in questi anni si è pensato che bastasse semplificare le procedure per realizzare appunto gli interventi di qualsiasi tipo. Invece siamo in un paese che ha anche una difesa da parte dei cittadini, la propria identità, che deve portare ad avere rispetto per le opinioni e per la forza che ha una comunità di difendere il proprio paesaggio, e anche appunto rispetto attraverso uno studio delle attenzioni, delle risposte alle preoccupazioni che si deve avere. Solo in questo modo riuscirà il nostro paese a realizzare qualcosa, tenendo assieme questi due aspetti. Schlitzer invece, appunto, da un punto di vista di un'associazione come Hitech, propongo una nuova attività estrattiva da qualche parte, come mi confronto con le persone? No, il dialogo è fondamentale, le nostre aziende lo perseguono. Il problema col quale ci confrontiamo è che, insomma, quelle posizioni molto spesso con le quali ci confrontiamo sono posizioni ideologiche per le quali, diciamo, non dovrebbe proprio esistere l'attività industriale tout court. È chiaro che questo non è possibile, è come chiedere di avere la moglie ubriaca e la botte piena. Quindi se le attività industriali come quella cementiera, che diciamo, produce un bene di base, il secondo bene al mondo più consumato dopo l'acqua, si dice, e se quell'attività ci deve essere, necessariamente questa attività avrà un impatto, e l'obiettivo è minimizzare il più possibile questo impatto. Quindi allora, come si fa, diciamo, a sormontare questo problema quando ci si confronta con un'opposizione ideologica? Lo si fa non presentandosi, secondo me, sul territorio da soli come associazioni, perché si è visti come parte terza, ma con un partner autorevole che è visto come una fonte terza di informazione. E quindi questo progetto abbiamo fatto con Lega Ambiente, che per noi ha una valenza assoluta, che va al di là del contenuto delle linee guida, va appunto in questa direzione, cioè nel raccogliere il consenso, ma non da soli, ma accompagnati da terzi soggetti molto autorevoli, molto rigorosi, che ci possono dare una mano a convincere effettivamente che quello che si fa persegue comunque il bene comune. E che è fatto con un criterio, insomma, non solo. Con criteri, diciamo, dove per la verità, nel caso specifico, devo dire, l'industria cementiera italiana è anche all'avanguardia. Quindi però quando ci si scontra contro un muro ideologico, anche la ricerca del consenso da soli è molto difficile. Però, diciamo, nella nostra nuova prospettiva lo si può fare appunto affiancati da partner terzi come può essere Lega Ambiente, ma in futuro noi vorremmo anche un coinvolgimento della Commissione europea in tanti altri settori, non solo quello dell'attività estrattiva. Quindi, per fare un esempio, insomma. Risalendo ancora, insomma, nella catena di coloro che possono supportare un'azione, un'attività industriale, ecco. L'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, Zanchini, pensando proprio a queste linee guida, diciamo, forse sono anche delle linee guida per i cittadini che si confrontano con un'attività progettata magari sul loro territorio di estrazione. Ecco, io ho in mano queste linee guida e chiedo, faccio delle domande specifiche su questi punti. Può essere letta anche dall'altra parte, probabilmente, come un manuale. Esattamente, cioè un modo per capire in che modo un'attività può essere, una proposta di un'attività che va in un territorio può essere valutata, cioè se è fatta da imprenditori che hanno un certo tipo di attenzioni, che provano a far capire appunto svantaggi, impatti, ma anche possibili mitigazioni e poi vantaggi finali di un'attività come questa. È un modo per fare in modo che nel nostro paese il confronto su progetti e su idee di trasformazione dei territori avvenga sulla base di fattori appunto non ideologici, come diceva prima Schlisser, ma appunto su un confronto sul merito di quello che potrebbe essere l'impatto di quello, insomma, di quello che si può fare per mitigarne o ridurne in qualche modo le conseguenze ambientali e paesaggistiche. Seconda parte dell'altro pianeta, tra poco ci colleghiamo nuovamente con Maria Grazia Midulla a Doha, la responsabile clima ed energia del WWF. Prima però qualche altro elemento di discussione sulla difesa del territorio, perché in settimana il ministro Clini ha illustrato le linee strategiche del piano di adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio, che ha inviato al CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Che cosa prevede il Ministero dell'Ambiente? Dunque, vietato abitare nelle zone ad altissimo rischio di alluvione, lavori di manutenzione dei corsi d'acqua e di difesa dei centri abitati, recupero dei terreni abbandonati, difesa dei boschi, protezione delle coste e delle lagune esposte all'innalzamento del mare e anche assicurazione obbligatoria per le costruzioni nelle zone a rischio di inondazione e riattivazione infine dei bacini idrografici. Il piano strategico sulla difesa del territorio sarà discusso dal CIPE, come dicevamo, in una delle prossime sedute, d'intesa con i ministri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dell'economia e finanze, che sono ovviamente i ministeri interessati. Il programma di difesa, secondo il Ministero dell'Ambiente, potrebbe essere finanziato utilizzando una parte dei proventi, il 40%, delle aste per i permessi di emissione di anidride carbonica, che sono proventi che la legge destina per almeno il 50% ad azioni contro i cambiamenti climatici. Appunto. Un'altra quota di queste risorse potrebbe venire dai carburanti, questo non aumentando il prelievo, ma rimodulando diversamente gli oneri a parità di peso fiscale. Questi sono appunto i temi principali, le linee strategiche del piano di adattamento ai cambiamenti climatici che ha illustrato il ministro Clini nei giorni scorsi. Ministro Clini che è stato però anche a Doha, dove, come dicevamo, c'è Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia. Che posizione ha rappresentato e qual è poi la vostra analisi come WWF di quello che lui ha detto? Ma il ministro Clini ha rappresentato una posizione europea, è un passaggio positivo e doveroso, purtroppo però l'Europa in questa conferenza è molto debole perché appare abbastanza divisa soprattutto dalla posizione polacca sulla cosiddetta hot air, insomma dei crediti di carbonio inesistenti, insomma, ma adesso non voglio spiegare nei particolari. La questione secondo me importante è che l'Europa dovrebbe rilanciare, dovrebbe avere un obiettivo maggiore, è attualmente troppo debole per procedere a un aumento dell'obiettivo e quindi ha un obiettivo di riduzione che praticamente ha già raggiunto. Questo non costituisce un incentivo neanche per la stessa industria europea. Buono anche il discorso su quello che sta facendo l'Italia. Noi che siamo italiani però sappiamo che dobbiamo e possiamo fare molto di più, perché sì, abbiamo dato spazio alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, ma in realtà c'è molto, molto di più da fare per costituire quel sistema che renderà l'economia verde e la decarbonizzazione davvero efficace e davvero foriera anche di occasioni economiche per il nostro paese. Sì, che il nostro paese sta appunto scarsamente cogliendo, forse in un momento di crisi è comprensibile una certa chiusura, ma in realtà sarebbe positiva l'apertura e avrebbe immediata efficacia probabilmente. Oggi quella che resiste da noi è proprio l'economia verde, è proprio l'economia che ha capacità di investire sul futuro. Il compito dello Stato è quello di creare però quel quadro d'insieme e di certezze per le aziende in modo tale che queste aziende possano poi fare sistema. La stessa strategia energetica, che ha un respiro di soli 8 anni, quando ormai l'Europa si muove nell'ambito del 2050, non perché bisogna fare il libro dei sogni, questo lo vorrei sottolineare, ma al contrario, perché avere un obiettivo chiaro nel lungo periodo aiuta a porsi degli obiettivi intermedi stringenti, poi si può essere flessibili sul modo in cui raggiungere l'obiettivo finale, ma gli obiettivi stringenti fanno sì che tu sai dove andare. E certo, quindi si può programmare in maniera migliore. L'Europa dovrebbe forse essere più ambiziosa solo con se stessa se non riesce a sfondare questa barriera internazionale? Ma io penso che noi qua dobbiamo stare un pochino attenti a non dare tutte le colpe all'Europa. Noi siamo europei ed è bene che pensiamo ai governi di casa nostra, però nel quadro delle trattative internazionali ci sono delle economie che hanno delle responsabilità pesantissime, e in particolare gli Stati Uniti, che anche con il Presidente Obama, che riconosce la rilevanza e la drammaticità del problema dei cambiamenti climatici, non riescono a partecipare nel consesso internazionale e addirittura non riescono ad assumere quella leadership di cui ci sarebbe oggi bisogno. Grazie Maria Grazia Midulla, che ritroveremo ancora nelle prossime puntate se riusciremo, per poter fare il punto poi su queste due settimane di trattative che sono svolte a Doha. Adesso però è il tempo di dare il microfono a Marco Carminati per una nuova puntata di Articolo 9. Buongiorno da Marco Carminati. A Torino la scorsa settimana c'è stata un'inaugurazione particolarmente spettacolare. Nel castello di Venaria Reale, quindi vicino a Torino, è stata allestita quella che è l'ultima grande barca da parata che si conserva in Italia, cioè il Bucintoro dei Savoia, una barca realizzata nel 700, tutta scolpita come se fosse appunto una grande opera d'arte, che serviva ai Savoia per navigare nei momenti importanti della loro vita, cioè in occasione di grandi matrimoni. Questa barca è un oggetto straordinario, come straordinario è stato il restauro di questa barca, e il restauro è stato finanziato da una realtà molto importante, che è la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino. E noi vogliamo proprio parlare di questa realtà oggi, e abbiamo in collegamento con noi il presidente della Consulta, cioè Lodovico Passarenda Entrevo. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Ecco, voi siete riusciti a portare una barca dentro un castello, avete finanziato questo restauro, ma che cos'è la Consulta di Torino? 25 anni fa un gruppo, prima molto ristretto, di 6, poi 12, oggi 34 aziende, decisero di mettere ogni anno una cifra a disposizione del patrimonio artistico al fine di migliorarlo, e questo ha dato luogo a più di 46 interventi, oltre 20 milioni di euro investiti, oltre 2 milioni di lavoro, di ore di lavoro di tecnici, restauratori, architetti, eccetera. Quindi sono un fiore di imprese che ha deciso di prendersi cura, attraverso questa realtà che è la Consulta, del patrimonio artistico nazionale. Che cosa avete fatto, ecco, oltre alla barca? Che in passato quali sono state le cose più rilevanti che lei ricorda? Sì, ma Consulta ha lavorato su tutti i principali beni della città, da Palazzo Carignano all'Archivio di Stato, alle chiese di San Carlo e Santa Cristina, a Santena, al Castello di Cavour, ha lavorato al Teatro Regio, a Palazzo Carignano, alla Biblioteca Reale, il Monumento di Vittorio Emanuele e così via. Ed è passata, direi, in modo naturale in questi 25 anni, prima da un'attività di restauro che era assolutamente necessaria, e poi a un'attività di valorizzazione per ampliare al pubblico la possibilità di vedere molti beni che erano da restaurare, quindi erano beni che non erano accessibili, e questo ha dato luogo a una serie di interventi che oggi, diciamo, sono sui principali beni della città. Ecco, quindi non solo, diciamo, la salvaguardia, ma anche la valorizzazione, salvaguardia in funzione naturalmente di riconsegnare, no, alla società questi. E negli ultimi anni, Consulta ha anche espresso una capacità progettuale, stiamo in questo momento lavorando insieme alla direzione regionale alla costituzione del Polo Reale di Torino, che sarà sicuramente nei prossimi anni un altro punto di richiamo grandissimo della città, che è questo chilometro quadrato intorno al Palazzo Reale, dove i Savoia hanno espresso tutta la loro capacità non solo di governo, ma anche la loro capacità di grandi collezionisti. Certo, ecco, ma perché diciamo gli imprenditori attraverso la Consulta devono prendersi cura di questi importanti interventi che sono, appunto, come abbiamo sentito adesso, gran parte di edifici di patrimonio pubblico? Ecco, che cosa vi muove? Qual è la motivazione che fa sì che gli imprenditori debbano fare queste cose? Ma io credo che sia una domanda molto importante, perché gli imprenditori torinesi dimostrano due cose fondamentali. La prima, questo affetto, questo senso di riconoscenza quasi verso la loro città, e la seconda di ritenere che l'identità sia un fatto fondamentale. L'identità si esprime fortemente attraverso i beni culturali, per cui questa identità rappresenta un pochino la possibilità di una direi moderna cittadinanza, che da una parte vuol dire essere di un territorio, appartenere ad un territorio, dall'altra parte vuol dire essere universali, come sono i beni culturali e come sono queste aziende. Senta, lei ci ha dato proprio chiaramente la chiave di lettura. Speriamo che ce ne siano tante di Consulte che nascano sul modello della vostra nelle altre città italiane. Quindi io ringrazio moltissimo il presidente Passarende Entrave per questo intervento. Grazie presidente. Sono io che ringrazio voi, grazie mille e buon lavoro. Ecco, e a questo punto non mi resta che ricordare a tutti che c'è questa famosa barca a Veneria Reale, andate a vederla perché è davvero una mostra spettacolo. È tutto per questa puntata, grazie a Laura Faggin in redazione. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.